Allora, mi sentite? Deve avvicinarlo bene. Mi sentite? Bene, allora, diciamo io faccio una brevissima introduzione. Noi siamo il Partito Comunista Internazionale, per chi non ci conoscesse. Stiamo facendo questo giro di conferenze pubbliche sulla guerra perché ci sembra importante dare il nostro punto di vista, dal punto di vista internazionalista e marxista, sulla guerra in generale. Poi, ovviamente, non si può non ricadere sulla guerra, diciamo, attualmente in corso, però nella conferenza prevalentemente il compagno cercherà di esporre le posizioni del partito sulla guerra in generale. Quindi, diciamo, appunto, il compagno farà questa relazione e alla fine della relazione saranno possibili domande sull'argomento, che cercheremo di chiarire con le nostre capacità, ovviamente, perché l'argomento ovviamente sembra semplice, ma è molto, molto attraversa molti aspetti, non solo quello della guerra, e non solo l'aspetto militare, non solo l'aspetto finanziario, non solo l'aspetto politico, e quindi cercheremo di dare le nostre risposte di chiarire alcune domande che magari verranno poste. E noi abbiamo eventualmente il nostro sito, non abbiamo una presenza fisica a Milano come sezione. Eventualmente sul nostro sito potete trovare tantissimi lavori che facciamo regolarmente. Il nostro giornale che si chiama appunto in lingua italiana, che si chiama Partito Comunista, e la nostra rivista, chiamiamo teorica, che si chiama Comunismo. Io mi fermerei, mi limiterei a questa brevissima presentazione e lascerei subito la parola al compagno che partirà con la relazione. Sì, allora, per trattare questo tema della guerra noi faremo vari passi, mano a mano in maggiore profondità nell'analisi delle radici del fenomeno della guerra, secondo la lettura che ne dà il marxismo, il comunismo rivoluzionario e il nostro partito. Prendiamo le mosse da quello che ci pare uno degli elementi, più appariscenti di questo conflitto e l'intensità e la drammaticità con cui esso è stato ed è presentato alle masse dai mezzi di informazione di regime. Ora, questo aspetto ha suscitato in non pochi una certa riprovazione se paragonato con la minore o ben scarsa attenzione dedicata invece dai mezzi di informazione di massa e dai governi a guerre del passato più o meno recente e più o meno vicino, più o meno lontane all'Italia e all'Europa. Ora, questa reazione emotiva, secondo noi, è condivisibile, ma soprattutto ci offre lo spunto per fare una prima affermazione caratteristica del mo nostro modo di vedere questo conflitto e la guerra nel capitalismo in generale. A nostro modo di vedere, la guerra in Ucraina non è un episodio isolato, slegato e disgiunto dai conflitti che ci sono stati nel recente passato, possiamo dire, dalla seconda metà degli anni 70, dalla fine delle guerre di liberazione nazionale ad oggi. Ma possiamo addirittura, estremizzare affermando che si tratta di un unico conflitto che nel tempo è maturato ed è esploso in vari punti del mondo, in varie zone cosiddette di faglia, di contrasto fra le potenze statali, fra le potenze imperialistiche, devastando prima l'Afghanistan con l'invasione russa, poi il Medio Oriente con la guerra fra Iran e Iraq, successivamente ancora il Medio Oriente con la guerra in Iraq, i Balcani, la Siria, e ora giunge a devastare l'Ucraina e la sua popolazione. Si tratta a nostro modo di vedere, di un'unica catena di conflitti, risultato prodotto dei contrasti interimperialistici permanenti, di cui la guerra in Ucraina è solo l'ultimo anello. Questo però non può portarci a negare un dato che invece afferma la diversità di questa guerra da quelle precedenti del passato più o meno recente. Per il punto in cui è combattuta questa guerra, per gli attori che vi sono coinvolti e per come sono coinvolti. Per l'essere combattuta vicino al cuore di uno degli imperialismi mondiali, cioè l'Europa centro-orientale, per vedere il coinvolgimento diretto di un imperialismo che ormai possiamo definire di media potenza, ma che rimane pur sempre uno dei principali imperialismi mondiali, che è quello russo, e per vedere dal fronte opposto coinvolto in modo molto pesante, intenso, gli imperialismi che lì si contrappongono, in primo luogo gli Stati Uniti e il Regno Unito, e poi a seguire forzatamente la Francia, gli altri imperialismi europei, e Germania e Italia, questa guerra, pur essendo ancora una guerra locale e per procura, si configura come un passo decisivo, importante, verso un terzo conflitto mondiale. Ora, indagare, definire, descrivere quelle che sono le cause che accomunano i conflitti passati che abbiamo prima citato, a questo noi prendiamo le mosse partendo dal basso della vita sociale nel capitalismo. Se noi guardiamo all'esperienza quotidiana dei lavoratori di tutto il mondo, vediamo come le aziende, le imprese, per resistere alla concorrenza economica nel capitalismo, nel mercato mondiale, si dimostrino disposte a usare qualsiasi mezzo pur di difendere e tutelare i loro margini di profitto. Le aziende aumentano i carichi di lavoro, aumentano i ritmi di lavoro, risparmiano sui costi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, cercano di spingere a ribassi i salari, attaccano per distruggere le organizzazioni sindacali combattive e conflittuali di classe dei lavoratori, generalmente cercando di sostituirle con organizzazioni sindacali complici, collaborazioniste, vendute agli interessi del padronato. Ora, questo carattere non è proprio solo di aziende medio-piccole, magari gestite da padroni o da famiglie padronali con una cultura particolarmente ostile verso i lavoratori in genere, ma è propria anche di grandi aziende e grandissime aziende a carattere monopolistico, oggi chiamate multinazionali. Anzi, possiamo dire che per le dinamiche della concorrenza capitalistica, più un'azienda si dimostra senza scrupoli, maggiore facoltà ha di vincere nella concorrenza internazionale. Esempi di questo tipo clamoroso non mancano, si pensi alla politica antisindacale nei magazzini Amazon negli Stati Uniti e non solo. Oppure sempre negli Stati Uniti il fatto che la Fiat Chrysler è stata condannata per via processuale per aver comprato con milioni di dollari i capi del sindacato. Oppure, per fare un esempio a noi più vicino, il fatto che una grande finanziaria internazionale abbia risparmiato sui costi di manutenzione, provocando uno dei maggiori disastri che possiamo definire industriali nella storia d'Italia del secondo dopoguerra, cioè il crollo del Ponte Morandi. Ora, questo quadro ci fa concludere che il capitalismo, dal punto di vista economico, si caratterizza per il fatto di marciare letteralmente sulle vite e sui corpi dei lavoratori, della classe lavoratrice e delle loro famiglie, per difendere i profitti. Ma da questo, diciamo, da questa base economica noi possiamo fare un primo passettino in alto, più in elevato, e dire che tutti questi interessi economici di aziende piccole, medie, grandi e gigantesche sono concentrati e vedono moltiplicata la loro potenza, la loro forza e anche la loro forza antisociali nelle moderne macchine statali nazionali. Gli stati moderni si caratterizzano come delle agenzie a tutela degli interessi complessivi del capitale. del capitale non solo delle imprese, cioè del capitale industriale, ma anche delle banche e del capitale finanziario. In un intreccio inestricabile fra capitale industriale e capitale finanziario, che è una delle caratteristiche fondamentali del capitalismo passato dalla sua fase giovanile alla sua fase di piena maturazione, e che da Lenin in avanti noi marxisti chiamiamo imperialismo. Le moderne macchine statali nazionali nascono già sotto la spinta degli interessi economici e politici della classe borghese, a detrimento degli interessi politici di una classe decadente qual era quella aristocratica feudale, e questo carattere, col passaggio, col maturare del capitalismo nella sua fase imperialista, non viene diminuito, bensì si accresce ulteriormente. Quindi è fondamentale tesi marxista che lo Stato nel capitalismo è la macchina di tutela degli interessi del capitale. Ora, questa tesi evidentemente è inconcepibilmente contrapposta e nemica a quella di tanti dei gruppi opportunisti, dei falsi partiti operai, i quali invece vedono nello Stato uno strumento in grado di mitigare gli effetti antisociali del capitalismo, fino al punto di poter, con un'adeguata politica, evitare la guerra, permettere una pace duratura e fin anche universale. Secondo il marxismo, invece, così come le aziende si dimostrano disposte a sfruttare, licenziare, ammalare e uccidere per tutelare i profitti decine di migliaia di lavoratori, per le stesse leggi economiche concentrate e potenziate, moltiplicate nella loro potenza, gli stati capitalisti sono disposti a fare la guerra, provocando la morte dei lavoratori a centinaia di migliaia e a milioni, pur di tutelare gli interessi complessivi della classe dominante, a cui tipicamente viene dato il nome di interesse nazionale, cioè un manto ideologico con il quale un interesse che è specifico di una classe sociale viene presentato invece come interesse di tutte le classi sociali che compongono la cosiddetta comunità nazionale e il cosiddetto popolo. Quindi, come primo passo, nel voler andare con una maggiore procedere in profondità alle radici del fenomeno della guerra, noi possiamo affermare che la guerra è la prosecuzione nel campo militare della competizione economica fra gli stati. Ora, questa competizione economica va da sé, non si svolge in condizioni sempre uguali a se stesse e costanti. Altra fondamentale tesi marxista è che l'economia capitalista alterna, non solo alterna cicli di crescita a periodiche crisi, ma è destinata a precipitare in una crisi generale e catastrofica. Quella che è la potenza formidabile del capitalismo è anche la sua inappellabile condanna storica, cioè la necessità che ha di crescere in continuazione e in maniera crescente, di continuare di accumulare il capitale, la massa del capitale in maniera crescente. Ora, l'accumulazione del capitale avviene attraverso il ciclo produttivo, con l'impiego della forza lavoro salariata, che da cui si estrae il plusvalore, di cui il profitto è una parte. Questa costante, continua spinta alla crescita differenzia il capitalismo da tutti i modi di produzione precedenti, determinando uno sviluppo delle forze produttive che mai si era visto nella storia umana, di cui tutti siamo testimoni e a cui il marxismo ha dato subito, fin dal principio, massimo risalto, fin dal manifesto del Partito Comunista del 1848. Ma una crescita permanente del capitalismo e dell'accumulazione del capitale non è possibile. Ad un dato grado dello sviluppo economico capitalistico, il vulcano della produzione affonda e affoga nella palude del mercato. la massa delle merci prodotte trova sempre maggiore difficoltà ad essere assorbita dal mercato, da un lato. Dall'altro lato, il cosiddetto saggio del profitto, cioè il rapporto fra il profitto ottenuto e il capitale investito per ottenerlo, tende a diminuire, a diventare talmente esiguo dal frenare gli investimenti fino a inceppare e a fermare la macchina produttiva del capitalismo, il meccanismo di accumulazione del capitale. Scoppia la crisi e la classe lavoratrice, il proletariato e le mezze classi vengono gettate nella povertà. Si assiste perciò a un altro dato che distingue il capitalismo da tutti i modi di produzione che lo hanno preceduto in modo clamoroso, ossia che la fame, la povertà, la miseria, infine anche la guerra non sono prodotti da scarsità, scarsità dei beni, scarsità delle forze produttive, ma da troppi beni, troppi prodotti, troppe forze produttive. Quello che è il nucleo progressivo del capitalismo, cioè lo sviluppo delle forze produttive, l'enorme sviluppo delle forze produttive, reso possibile dal fatto che queste forze produttive sono subordinate alla ossessiva e costante ricerca e realizzazione del profitto, si ritorce e diviene reazionario, si ritorce contro l'umanità lavoratrice, in quanto proprio queste forze produttive sono subordinate alla necessità del profitto. Il nucleo del programma del comunismo non è un piano ideato nella testa di Carlo Marx, ma consiste nel superamento di questo limite storico, cioè nella liberazione delle forze produttive dalla subordinazione ai bisogni del profitto per porle al servizio dei bisogni umani. Quella che è una delle più celebri quanto abusate frasi di Marx, cioè che il comunismo è il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti, non ha il significato che ogni movimento sociale che si verifica nel capitalismo è in sé rivoluzionario, come lo hanno interpretato a uso e consumo tanti gruppi opportunisti, ma è proprio questo movimento complessivo del capitalismo che spinge contro questo suo limite, sviluppa le forze produttive, ma arriva un dato momento che le forze produttive si ritorcono contro l'umanità perché cozzano contro il limite del fatto di essere subordinate alla ricerca del profitto, all'ottenimento del profitto. Ora, chiuso questo inciso, che non è gratuito, ma ci serve per dare il quadro della lettura marxista della guerra e della strada che il comunismo indica ai lavoratori per uscire dalla guerra. Okay? Da questo quadro che abbiamo fatto si capisce come la competizione fra imprese e stati capitalisti tende a divenire sempre più aspra. Il mondo diviene sempre più piccolo e i capitali sempre più agguerriti. Ora, questa situazione evidentemente si intuisce facilmente come tende a rendere sempre più facile, sempre più probabile e sempre più necessario quel passaggio dalla competizione e lotta economica alla aperta lotta militare fra gli stati. E ora leggo una prima citazione di un articolo che dal nostro giornale che abbiamo scritto nell'agosto dell'anno scorso, quindi 6 mesi prima dell'inizio della guerra in Ucraina. Il modo di produzione capitalista, dopo aver vissuto 5 recessioni mondiali dal 1975, è entrato nel 2008-2009 in una crisi storica su vasta scala che può essere risolta solo da una terza guerra mondiale o dal rovesciamento della borghesia con la forza delle armi e la transizione al comunismo nei principali centri industriali. L'epidemia di Covid ha aggravato uno stato disastroso. Poi la citazione va avanti, io ve la riassumo, riporta i dati economici negativi sia per gli Stati Uniti che per la Russia, che fondamentalmente allo stato attuale sono gli attori, quelli che realmente sono gli attori principali della guerra in corso. Ora, questa spinta a passare dalla competizione economica alla lotta militare non è un dato solo del presente e dell'oggi del capitalismo, ma il suo carattere fin dalle origini, ragion per cui il panorama internazionale del capitalismo è sempre stato caratterizzato da guerre locali e per procura, ma anche nelle fasi di crescita, ma col passaggio dalle fasi economiche di crescita alle fasi di crisi, cosa succede? Che queste guerre tendono ad aumentare, a diventare di maggiore gravità, ad avvicinarsi ai centri dell'imperialismo, a coinvolgere in maniera diretta le massime potenze imperialiste, tendono a sfociare in un conflitto generale mondiale diretto fra le potenze imperialiste, che come in un vortice si tira dentro, va a coinvolgere la maggior parte degli stati capitalisti. Tutti gli stati capitalisti quindi tramano e lavorano senza posa per difendere e guadagnarsi posizioni strategiche dal punto di vista economico e militare, e non cessano mai naturalmente di armarsi. E vi leggo un'altra citazione, questa da un nostro articolo di 4 mesi prima dello scoppio della guerra, che si intitola «La montante crisi spinge il capitalismo al riarmo e alla guerra». Il Covid-19, come abbiamo più volte ricordato, non ha provocato la crisi economica, ma l'ha aggravata, e citando le tensioni fra gli imperialismi. La crisi economica che si approssima sarà più devastante di quella del 2009 e si verificherà in questo contesto di crescente tensione internazionale. Questa tensione globale è stata confermata a giugno, un anno fa, dal primo viaggio all'estero del nuovo presidente statunitense Biden per partecipare al G7 in Cornovaglia e successivamente al vertice NATO del 14 giugno. Obiettivo di Biden era annunciare che, citato, gli USA sono tornati rispetto alla politica precedente estera dell'amministrazione Trump e ricompattare l'alleanza con i maggiori paesi industrializzati per opporsi alle minacce provenienti soprattutto da Cina e Russia. Ma le cose non sono andate secondo i suoi desideri, nemmeno al successivo vertice del G8 ha dato i risultati sperati, cioè quella unanimità sotto l'ombrello statunitense che Washington si proponeva di ottenere. Nonostante l'inesistenza di una politica estera comune dell'Unione Europea, ciò ha messo in evidenza le divergenze tra gli USA e i maggiori stati europei. E poi vengono elencate le divergenze. Ora, noi possiamo dire che, almeno temporaneamente, uno degli effetti di questa guerra è stato proprio ricompattare, ripeto, temporaneamente, ottenere quel risultato che l'imperialismo statunitense cercava di ottenere e sancire con questi convegni internazionali, no? Ora, in questo quadro fin qui descritto risulta del tutto superficiale e da parte dei gruppi politici opportunisti criminale stare a distinguere fra Stato capitalista aggredito e Stato capitalista aggressore. La guerra imperialista matura dal complessivo svolgimento della base sociale ed economica del capitalismo. A provocarla non è lo Stato capitalista che per primo passa all'azione militare aperta, ma responsabile della guerra è il capitalismo nel suo complesso. Ora, che la guerra possa essere invece evitata con un sistema di regole finalizzate a mantenere i cosiddetti diritti delle nazioni attraverso il cosiddetto diritto internazionale, non è solo una illusione, è un'illusione profondamente reazionaria coltivata da tutti gli stati capitalisti, perché essa educa le masse lavoratrici all'idea che la normalità dell'incedere del capitalismo sia quella della pace. E questo naturalmente nei paesi per i lavoratori, per le masse lavoratrici dei paesi imperialisti, dalla loro esperienza di vita risulta accettabile e anche vero, perché la guerra, nonostante caratterizzi costantemente il panorama internazionale e quindi dimostri che invece il capitalismo nel suo normale incedere ha la guerra al suo interno, però è sempre vista come qualcosa che accade alla periferia e naturalmente giustificata ideologicamente con motivi le cui cause sarebbero interne al luogo in cui quelle guerre periferiche scoppiano e non hanno invece origine nei centri dell'imperialismo mondiale. Ora, diseducando le masse lavoratrici all'idea che la normalità del capitalismo sia la pace, accade che quando la guerra arriva, innanzitutto le masse, i lavoratori si trovino completamente impreparati. E questa è un po' la situazione in cui noi ci troviamo oggi. La guerra sta arrivando, però noi facciamo i volantinaggi, facciamo le assemblee, ma i lavoratori credono che ancora sia qualcosa di lontano. Non, nella maggior parte pensano che non debba accadere qualcosa di, non sia possibile che debba accadere qualcosa di così grave. Dall'altro lato, quando la guerra arriva, e facilmente i lavoratori educati in questi termini, a queste idee, sono vittime della ideologia, ciascuno del proprio stato borghese, che dà la colpa del conflitto al fronte di stati, allo stato avversario, il quale sarebbe colpevole di aver esso rotto, violato quelle regole che invece garantivano la pace. Ora, un terzo e ultimo passo che facciamo nell'esporre quelle che sono le radici del fenomeno della guerra secondo il marxismo, mentre i primi due li abbiamo fatti diciamo sul pieno terreno economico, questo lo compiamo con un piede sul terreno economico e con un piede sul terreno sociale e politico. La crisi economica, infatti, spingendo gli stati capitalisti a passare dalla competizione economica, dalla lotta economica alla lotta militare e tendendo a generare un conflitto generale e mondiale, crea in tal modo anche la soluzione a se stessa. Cioè la crisi, la guerra generale, la guerra mondiale, più lunga, duratura e distruttiva possibile, è anche la soluzione che ha il capitalismo alla sua crisi, a una crisi che altrimenti si rivelerebbe irrisolvibile. La guerra infatti viene a risolvere quella che è la causa della crisi economica del capitalismo, che è la sovrapproduzione, con le distruzioni. La guerra distrugge le fabbriche, distrugge le infrastrutture, distrugge i prodotti e le città, e distrugge anche la forza lavoro, che è quella merce speciale, unica nel capitalismo, speciale perché la sola che è in grado di aumentare il valore delle merci usate nel ciclo produttivo attraverso l'estrazione di plusvalore. Ma, come tutte le altre merci, in fase di crisi economica diviene sovrabbondante, andando a gonfiare pericolosamente per la stessa esistenza del capitalismo le masse dei disoccupati. Perché pericolosamente? In che senso questa situazione diventa pericolosa socialmente per il capitalismo? Non certo per i freddi numeri economici dei bilanci capitalistici in sé, ma perché la crisi economica e inevitabilmente spinge milioni di uomini e di donne a una lotta in difesa delle proprie condizioni di vita, a una lotta per la sopravvivenza, a dispetto del fallimento economico del capitalismo. Ora, quindi, tutti gli stati capitalisti, al di sopra dei loro contrasti di interesse, per il quale costantemente lavorano per contendersi le posizioni strategiche, economiche e militari, al di sopra dei cosiddetti contrasti geopolitici, oggettivamente tutti gli stati sono interessati, sono cointeressati al fatto che la guerra arrivi, esploda e compia la sua opera distruttrice e rigeneratrice di un'economia capitalistica affetta da una crisi che altrimenti risulterebbe irrisolvibile. Quindi tutti gli stati capitalistici sono interessati alla guerra come soluzione che possiamo dire tecnica alla crisi del capitalismo. Ma non c'è solo l'aspetto tecnico. E c'è anche un tecnico-economico, diciamo, c'è anche un aspetto sociale, perché masse enormi concentrate dal capitalismo in città di milioni di uomini e di donne, portate a condizioni di sempre più estrema povertà e sofferenza dalla crisi economica, irrimediabilmente, per via spontanea e materialistica, tendono con il loro movimento di lotta per sopravvivere ad andare a scontrarsi contro quel limite del capitalismo, cioè contro quella subordinazione delle forze produttive ai bisogni del profitto. Queste masse di uomini, che sono il moderno proletariato, sono il movimento reale che, per via spontanea e materialistica, tende ad andare a rompere quel limite, ma a romperlo non in senso conservativo del capitalismo, ma in senso che va a superare il capitalismo. Ora, in questa condizione, permanendo una condizione di crisi, tendenzialmente è inevitabile che le masse lavoratrici si vadano a collegare, a ricollegare con l'unico partito politico che offre loro una spiegazione scientifica della loro condizione e una via pratica d'azione chiara alla loro condizione, cioè col partito del comunismo rivoluzionario. Ora, questa situazione è un pericolo intollerabile per tutti i regimi politici della classe dominante. È un terrore, è, come dice il manifesto del Partito Comunista, uno spettro che nel 1848 si aggirava per tutta l'Europa e oggi si aggira per tutto il mondo. La guerra, venendo a levare milioni di uomini dalle città per portarli al fronte, a farsi ammazzare e ad ammazzare altri lavoratori, e provocando la morte di un numero ancora superiore di persone, di uomini e di donne della classe lavoratrice nelle città, per il carattere che hanno le guerre imperialiste dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, che vedono più vittime civili di quelle militari, la guerra si configura come un vitale strumento della classe dominante per impedire il maturare e l'esplodere della rivoluzione sociale, cioè per impedire che quel movimento inevitabile e spontaneo di lotta per la sopravvivenza, di difesa delle condizioni di vita, si ricolleghi col partito della rivoluzione. Quindi alla guerra, gli stati capitalisti sono tutti cointeressati, sia come soluzione alla crisi economica del capitalismo altrimenti risolvibile, sia come strumento principe per impedire il maturare e l'esplosione della rivoluzione sociale e politica della classe lavoratrice. Ora, in questi termini, la guerra si configura non come un atto di aggressione di uno Stato o di un gruppo di Stati capitalisti a un altro Stato o un altro gruppo di Stati capitalisti, ma come un unico atto di aggressione di tutti gli Stati capitalisti confederati contro i lavoratori di tutti i paesi, contro il proletariato internazionale. Nella guerra il vero aggredito non è uno Stato capitalista o un gruppo di Stati capitalisti, ma è il proletariato, sono i lavoratori di tutti i paesi. Ora, in questa descrizione delle radici del fenomeno della guerra, abbiamo trattato due elementi, uno economico e uno sociale e politico, che sembrano correre paralleli. In realtà sono strettamente intrecciati in un unico elemento, che è la lotta di classe. Cioè, necessità economica della guerra e necessità politica della guerra sono due facce della stessa medaglia, che è la lotta fra le classi sociali che compongono il capitalismo, che sono la borghesia e la classe lavoratrice. La lettura della guerra come uno strumento per la spartizione del mercato mondiale. È un primo passo di approfondimento a cui peraltro possono giungere anche alcuni analisti borghesi. Il marxismo dice qualcosa di più, di molto di più. La guerra non è una pausa nella lotta fra le classi, ma è il culmine della lotta fra le classi, della lotta fra borghesia e classe lavoratrice. È un episodio di questa lotta costante e ne è il culmine. In questo senso non c'è una discontinuità fra pace capitalista e guerra capitalista. La guerra capitalista, come nella pace capitalista, c'è la lotta di classe, c'è la costante lotta fra classe lavoratrice e classe dominante. La guerra è un prodotto in continuità con questa lotta. E la guerra imperialista, nella sua essenza più profonda, va letta come episodio culmine della lotta fra le classi, secondo quello che è l'incipit, la frase iniziale del manifesto del Partito Comunista, secondo la quale la lotta fra le classi è il motore della storia. Se è così, anche la guerra imperialista è un episodio della lotta fra le classi e non ci si può limitare a leggerla in termini geopolitici. Ora, fatto questo quadro di analisi, noi andiamo su questa base a esporre qual è la strada che il comunismo e il nostro partito indica ai lavoratori per uscire dalla guerra. Una prima affermazione che dobbiamo porre a premessa di questa spiegazione è che noi in nessun modo riteniamo possibile che la guerra sia impedita nel suo inizio o fermata qualora sia già esplosa per via pacifica e non violenta. Infatti, se secondo quanto abbiamo detto la guerra è uno strumento vitale per la sopravvivenza economica e politica del capitalismo e dei suoi regimi politici, e per la classe lavoratrice evidentemente è altrettanto vitale trovare la forza per rifiutarsi di combattere la guerra imperialista, una simile risoluzione di un simile dilemma non può avvenire per via pacifica. Se la guerra si configura come un atto di aggressione di tutti gli stati capitalisti e imperialisti contro la classe lavoratrice internazionale, impedire la guerra si configura da parte dei lavoratori, della classe lavoratrice, come un insostenibile e insopportabile atto di aggressione contro il capitalismo e i regimi capitalisti, a cui non ci si può non aspettare una reazione non certo pacifica, bensì violenta. E d'altronde, per quanto riguarda il pacifismo, bisogna tenere presente che il suo traguardo nelle sue varie correnti, anche qualora ritenga necessario per ottenerlo la mobilitazione delle masse, non può che approdare all'obiettivo della risoluzione della guerra attraverso una diversa azione delle diplomazie politiche degli stati, che giungano a risolvere per via pacifica i loro contrasti di interessi in luogo della soluzione per via militare. E ora, evidentemente, questo traguardo che si pone il pacifismo parte da premesse che sono completamente diverse da quelle fin qui esposte. Cioè, la guerra non è vista come un prodotto inevitabile della base economica e sociale del capitalismo, ma è pur sempre vista come il prodotto di determinate idee politiche, di una determinata cultura politica, cioè come il prodotto comunque di un fenomeno che ha le sue radici nel mondo delle idee. Cioè, il pacifismo si pone con tutti i piedi nel campo dell'idealismo e quindi dell'ideologia borghese. E il suo fallimento si manifesta ogni qualvolta la guerra, dall'essere un fenomeno ancora lontano, diviene invece un elemento prossimo, immediato, presente, come ad esempio nel caso di una invasione militare. L'esperienza storica mostra come in quel momento, di fronte al fallimento materiale di quella prospettiva di risoluzione pacifica, per via pacifica dei contrasti di interessi fra gli stati capitalisti, il pacifismo si dilegua sostanzialmente e la stragrande maggioranza dei partiti che si dichiaravano tali divengono interventisti. Ciò che il comunismo indica come via d'uscita dalla guerra non fa appello alla diplomazia degli stati, considerandoli naturalmente stati della classe dominante, ma ritiene possibile che la guerra, ritiene l'unica via possibile per fermare la guerra, che ciò avvenga attraverso la mobilitazione, la lotta e la rivolta delle masse lavoratrici. Ora noi dobbiamo fare una seconda premessa per poi entrare nel dunque, che è quella per la quale bisogna considerare che per tutti gli stati capitalisti non bisogna credere che sia affatto scontato e facile, garantito, convincere, costringere a portare a farsi portare milioni di lavoratori sul fronte, a farsi ammazzare ed ammazzare e a mantenerli sul fronte disciplinati per tutta la durata, della guerra. Questo obiettivo è la massima preoccupazione di qualsiasi Stato capitalista, entri in guerra. E non è assolutamente, perché è la massima preoccupazione perché non è assolutamente garantito. È questa garanzia come la ricercano i regimi borghesi, con l'imposizione di un massimo disciplinamento sociale, quella che viene detta coesione del fronte interno e anche una classica formula di tutti i politici borghesi, unità nazionale, mantenimento dell'unità nazionale. Naturalmente questo mantenimento dell'unità nazionale viene subito assecondato da tutte le correnti e frazioni espresse dai vari partiti borghesi, quando uno Stato borghese viene coinvolto direttamente dalla guerra, altra faccenda per ciò che riguarda la classe lavoratrice. Ora, il proposito, la via d'uscita dalla guerra indicata dal comunismo e dal Partito Comunista, passa per la rottura di questo disciplinamento sociale attraverso il movimento di lotta delle masse lavoratrici. E noi si ritiene che una lotta in difesa delle condizioni di vita dei lavoratori che ancora sono nelle città, nelle fabbriche, nelle campagne a lavorare, in difesa e in risposta ai sacrifici sempre più inauditi che la guerra comporta alle masse lavoratrici, questa lotta, questo movimento di lotta sindacale, in difesa delle condizioni di vita, determini condizioni estremamente favorevoli affinché la rottura del disciplinamento sociale, della disciplina di guerra, contagi dalle città, dalle campagne, anche i lavoratori sul fronte costretti a vestire la divisa e costretti a sparare sui lavoratori dall'altra parte del fronte. Ora, quindi, proposito pratico del partito, quindi, è battersi per rafforzare il movimento di difesa delle condizioni di vita immediate della classe lavoratrice, oltre che il partito stesso. Per arrivare al momento in cui il capitalismo condurrà la società alla guerra ed essere in grado di non di fermare la guerra, di non fare, di non permettere l'esplosione, qualora invece la guerra inizi, di riuscire attraverso un'azione sia nelle città sia fra i soldati al fronte, di determinare l'indisciplina nelle fabbriche e al fronte, fino a provocare, a organizzare il rifiuto di combattere dei lavoratori in divisa, il desiderio di farla finita con la guerra, e anche cercando di favorire azioni di fraternizzazione con i lavoratori dall'altra parte del fronte. Ora, naturalmente, questa prospettiva non può che apparire non solo ai partiti borghesi, ma anche ai partiti opportunisti, ai falsi partiti operai, come una follia. Noi lo vediamo già per quanto riguarda la situazione in Ucraina. Anche laddove gruppi opportunisti giungono a dire che la guerra in corso non è una guerra di aggressione della Russia semplicemente all'Ucraina, ma una guerra imperialista su entrambi i fronti, non giungono però a indicare ai proletari ucraini la via del disfattismo. Questo perché evidentemente si parte da presupposti politici diversi. Per l'opportunismo, l'opportunismo crede in principi quali la sovranità popolare, cioè non pensa che gli attuali regimi politici siano regimi della classe borghese che opprimono la classe lavoratrice, ma ritengono che non siano affatto regimi, ma siano sistemi politici in cui la classe lavoratrice ha facoltà di esprimere una linea politica, non solo di esprimere, ma anche di condividere parti del potere. Al contrario, per il comunisti, come abbiamo spiegato fin qui, ciò non è assolutamente vero. Ed è per questa ragione che, secondo il comunismo, i lavoratori non hanno niente da difendere all'interno del paese. Cioè, dal manifesto del Partito Comunista del 1848, Marx dice: i proletari non hanno patria. Non hanno patria in senso politico. Non abbiamo un regime politico che sia anche nostro da difendere. No, i lavoratori non hanno patria. Ora, questo spiega il fatto per cui l'azione che noi ci proponiamo di organizzare, favorire, invocare di fronte a una guerra di disfattismo del fronte interno, che poi non è null'altro che la prosecuzione della lotta di classe che si conduceva in tempi di pace, in tempi di guerra, ok? Cioè, l'opportunismo si caratterizza perché di fronte alla patria in pericolo mette da parte la lotta di classe e accetta l'unità nazionale. Il comunismo rivoluzionario non mette da parte la lotta di classe, ma la continua, perché ritiene che la rottura del disciplinamento sociale sia, come ha dimostrato la storia, generalmente il preambolo al crollo del fronte militare, e che la disfatta militare del proprio regime borghese crei la condizione sommamente più favorevole al suo abbattimento per via rivoluzionaria. Per questo il comunismo rivoluzionario persegue, invoca e lavora per la disfatta militare del proprio paese come via principale per il successo nella lotta rivoluzionaria per l'abbattimento del regime politico della propria classe dominante. Ora, questa prospettiva non solo è inconcepibile, ed è un'orribile bestemmia per i partiti borghesi opportunisti, i quali la ritengono uno scempio assai più grave ritengono la sconfitta, il disfattismo per la sconfitta del proprio regime borghese un atto mille volte più esecrabile di quanto non possa essere il sacrificio di milioni di proletari sul fronte per difendere la patria. Okay? Non solo questo. Una delle obiezioni che muove l'opportunismo al comunismo rivoluzionario è che siccome in generale di fronte a una guerra l'opportunismo si accoda alla propaganda del regime borghese che indica nei regimi politici degli stati nemici dei regimi più retrivi per giustificare naturalmente la guerra antidemocratici, autoritari, l'obiezione che muove al disfattismo rivoluzionario del comunismo da parte dei partiti opportunisti è che provocando la disfatta militare si determinerebbe un'invasione militare da parte di questi stati più reazionari che porterebbero a un'invasione, a un'occupazione militare e alla distruzione manu militare di ogni movimento rivoluzionario e di ogni prospettiva rivoluzionaria. Quindi l'opportunismo ci obietta che noi con questa azione andiamo verso il suicidio. Ora, questa obiezione ci permette di entrare invece in quelle che sono le reali dinamiche del conflitto, di una guerra imperialista, che come abbiamo detto, va letta, perché è un episodio della lotta fra le classi. Cioè, noi dobbiamo pensare che in tutti i paesi, anche nei paesi che vanno a occupare un altro paese, i lavoratori sono costretti a fare quella guerra e di quella guerra non ne possono più e non vedono l'ora di farla finita. Non solo, noi affermiamo che per uno Stato maggiore, per un esercito, è assai meno difficile confrontarsi con un esercito ancora in piedi che combatte e fa la guerra di quanto non sia occupare un paese manu militari attraverso l'invasione dell'esercito la cui rotta militare è stata provocata da un movimento rivoluzionario, perché non solo da parte di un esercito occupante occupare e controllare un paese che si tratta di città, non si tratta di un fronte militare, si tratta di controllare un intero corpo sociale dispiegato in città, paesi, campagne, fabbriche, è molto, non è affatto una cosa semplice, ma la massima preoccupazione di tutti gli stati maggiori in una situazione del genere è che i soldati dell'esercito occupante vengano contagiati dalle idee rivoluzionarie, dall'esempio di quei lavoratori di quel paese che hanno avuto il coraggio, hanno avuto la forza di ribellarsi e porre fine alla guerra. La massima preoccupazione di tutti gli stati maggiori è che il contagio del disfattismo si trasmetta attraverso i fronti di guerra e vada a contagiare tutti gli eserciti fermando la guerra. Perché se si ferma la guerra, fermare la guerra imperialista attraverso il disfattismo significa aprire la strada alla rivoluzione. Ora, quindi, va da sé che noi, il comunismo, il nostro partito, quindi indica questa strada pratica per opporsi e uscire dalla guerra, e di fronte vi sono delle conseguenze importanti da prendere in considerazione. Di fronte a un'invasione militare di un regime borghese, di uno Stato, di un paese in cui vi è ancora in piedi un regime borghese, i comunisti non indicheranno certo ai lavoratori di imbracciare le armi e difendere e liberare il paese. I comunisti continueranno a fare propaganda per gli scioperi, la rivolta sociale, la lotta di classe e la lotta rivoluzionaria entro i lavoratori di quel paese, cercando di contagiare i lavoratori in divisa dell'esercito occupante. Noi mai spareremo sui lavoratori costretti a fare la guerra, ma cercheremo sempre questa via. Cercheremo, indicheremo sempre di cercare la via del contagio del disfattismo rivoluzionario. Lavoratori tedeschi o francesi che occupate il suolo italiano, fate come i lavoratori italiani, rivoltatevi e facciamola finita con la guerra e apriamo la strada alla rivoluzione. Ora, qui ho finito, finisco leggendo alcune citazioni che diciamo sono esplicative di tutto quanto esposto qui, fino a qui, in maniera che si mostri un pochino come non sono diciamo prese di posizioni che esulano quello che è il reale e autentico comunismo e marxismo, ma sono in realtà la vera espressione di esso. La prima è di Marx ed è l'indirizzo della prima internazionale dopo la Comune. Scrive Marx che dopo la guerra più sconvolgente dei tempi moderni, che allora si trattava della guerra franco-prussiana, il vinto e il vincitore fraternizzino per massacrare in comune il proletariato, questo fatto senza precedenti prova come, non come pensa Bismarck, lo schiacciamento definitivo di una nuova società al suo sorgere, ma la decomposizione completa della vecchia società borghese. Il più alto slancio di eroismo di cui la vecchia società è ancora capace è la guerra nazionale, la guerra di liberazione nazionale, la guerra di difesa nazionale. Ed è ora dimostrato che questa è una semplice mistificazione dei vari governi, la quale tende a ritardare e affossare la lotta delle classi, e viene messa in disparte non appena questa lotta di classe divampa in guerra civile. Il dominio di classe non può mascherarsi sotto una uniforme nazionale. Contro il proletariato i governi nazionali sono tutti federati. Perché? Cos'era successo? Era successo che c'era la guerra franco-prussiana, il proletariato parigino è insorto, ha preso il potere, e gli eserciti prussiani e l'esercito francese, i governi borghesi prussiano e francese, hanno cessato le ostilità, si sono uniti per schiacciare nel sangue la Comune di Parigi. Ora, noi potremmo dire, ad esempio, ai primi di gennaio in Kazakistan c'è stata quella che noi abbiamo convintamente descritto come una genuina rivolta proletaria. È stata repressa per poche ore e i lavoratori in alcune situazioni hanno anche preso il sopravvento sulle forze dell'ordine, anche armandosi, assolutamente in assenza di qualsiasi partito politico rivoluzionario. Dopo un giorno il regime borghese kazako ha ripreso il sopravvento e ha represso nel sangue, con centinaia di morti e migliaia di arrestati, questa rivolta. E la Russia ha inviato le truppe per sostenere la repressione. Da parte di tutte le forze, di tutti i governi, i regimi politici borghesi, democratici, si è sostanzialmente mantenuto un atteggiamento di silenzio o di denuncia pro forma, perché in gioco c'erano gli interessi di tutti. La borghesia italiana con Leni ha interessi grandissimi, per esempio, in Kazakistan. Ora, se in Ucraina ci fosse stata una rivolta proletaria, quello a cui si assisterebbe non sarebbe la difesa spada tratta del diritto all'indipendenza dell'Ucraina, ma vi sarebbe sostanzialmente il silenzio o la complicità nella repressione da parte russa della rivolta in Ucraina. Ok? Quindi i proletari vengono chiamati a combattere da parte di tutti i partiti politici borghesi quando, solo naturalmente, quando devono combattere per interessi della classe dominante. Allora, quando si rivoltano per i propri interessi, le classi dominanti palesano il fatto di essere confederate e unite e desiderare la guerra come atto di aggressione di tutte esse confederate contro i lavoratori. Leggo ancora una citazione, è di Lenin questa. La questione della patria, risponderemo agli opportunisti, non si può porre ignorando il carattere storico concreto della guerra attuale. È una guerra imperialista, cioè una guerra dell'epoca del capitalismo sviluppatosi al massimo grado, dell'epoca della fine del capitalismo. La classe operaia deve inizialmente costituirsi in nazione, dice il manifesto comunista, indicando così in quali limiti e a quali condizioni noi riconosciamo la nazionalità e la patria come forme necessarie del regime borghese e di conseguenza della patria borghese. Gli opportunisti travisano questa verità trasferendo ciò che è giusto per l'epoca del capitalismo nascente all'epoca della fine del capitalismo. A proposito di quest'epoca, all'epoca della fine del capitalismo, dei compiti del proletariato nella lotta per l'abolizione non del feudalesimo ma del capitalismo, il manifesto comunista dice con chiarezza e precisione: gli operai non hanno patria. Ok, quindi evidentemente fino a qui noi ci siamo attestati su questa linea. Noi ci troviamo ormai da un secolo in una fase del capitalismo giunta alla maturazione imperialista, e in questa epoca le lotte di liberazione nazionale non hanno più un valore progressivo, come spiegava Marx, in quanto lotte per facilitare il passaggio al capitalismo e elevarsi e emanciparsi dal feudalesimo, ma diventano tutte strumenti e zimbelli della guerra fra imperialismi. E vi leggo l'ultima citazione, ancora di Lenin. I sostenitori della vittoria del proprio governo nella guerra attuale, prima guerra mondiale, hanno un punto di vista egualmente social-sciovinista. La classe rivoluzionaria nella guerra reazionaria non può non desiderare la disfatta del proprio governo, non può non vedere il legame esistente fra gli insuccessi militari del governo e la maggior facilità di abbatterlo. Ora, a tal proposito, gli esempi storici non mancano. Quando ho affermato che noi comunisti lottiamo per la disfatta militare del nostro regime in quanto crea la condizione più favorevole al suo abbattimento, la Comune di Parigi è nata da una sconfitta, da una rotta militare dell'esercito francese. La prima rivoluzione russa nel 1905 è sorta, ha avuto origine dalla sconfitta nella guerra russo-giapponese dell'esercito russo. La rivoluzione d'ottobre è stata possibile perché il partito bolscevico è stato l'unico partito ad opporsi realmente alla guerra e ha preso il potere politico in quanto era l'unico partito che voleva fermare la guerra e ha lavorato anche attivamente alla disfatta dell'esercito zarista sul fronte orientale. Altro elemento, qui concludo, che ho omesso di ricordare è circa il fatto che magari può trovare degli scettici che la crisi economica del capitalismo conduca al movimento di lotta delle masse lavoratrici, perché in Italia ancora questo assolutamente non avviene, quindi lo scetticismo diciamo può anche essere comprensibile, ma è doveroso avere uno sguardo internazionale e questi movimenti ci sono già stati, per ora hanno riguardato sostanzialmente le periferie rispetto ai centri dell'imperialismo, come comprensibile che sia, perché sono società capitalistiche meno forti in cui i lavoratori sono in condizioni peggiori. Dopo il 2008 noi abbiamo avuto le rivolte arabe, le cosiddette primavere arabe nel Nord Africa, e più recentemente abbiamo avuto potenti movimenti sociali in Sud America, nell'America Latina, in Colombia, Ecuador e Cile, come detto ai primi di gennaio in Kazakistan, e per quanto di intensità minore, ma però comunque non, da non sottovalutare, va considerato anche il ritorno di un movimento di scioperi invece nel cuore dell'imperialismo, negli Stati Uniti, in atto da almeno 2 anni. Ora, tutti questi elementi ci mostrano come la crisi che determina la guerra e che poi è alimentata dalla guerra, come noi naturalmente stiamo vedendo in questi giorni per ciò che riguarda ad esempio la crisi alimentare relativa ai cereali e al grano, metterà in moto gigantesche masse, lo sta già succedendo in Iran e non solo, gigantesche masse lavoratrici, dando corpo e forza alla prospettiva rivoluzionaria e al lavoro che il nostro partito si propone di fare. Io vi ringrazio e ora, se ci sono naturalmente domande, siamo qua per rispondere.